Europa 24. La questione migranti in primo piano a Bruxelles al Consiglio straordinario interni dell'Unione Europea. Non nascondo la mia delusione per i risultati molto scarsi sui ricollocamenti, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Dimitris Avramopoulos. Oggi sarà l'occasione per sollecitare i paesi. I ricollocamenti sono legati alla solidarietà e la solidarietà non può essere applicata alla carta, ha detto Avramopoulos. All'ordine del giorno anche l'accordo con la Turchia sulla liberalizzazione dei visti. Si sta rivelando politicamente molto complessa l'idea di liberalizzare i visti per i cittadini turchi che vogliono recarsi in Europa. Il governo turco si sta rifiutando di rispettare alcuni dei 72 criteri messi nero su bianco dall'Unione Europea, in particolare quello che prevede una revisione della legge antiterrorismo. Dall'iter di approvazione dipende il futuro dell'accordo tra Ankara e Bruxelles. L'intesa prevede il ritorno in Turchia dei migranti arrivati in Grecia, così come forme di reinsediamento dei migranti in tutta Europa. C'è grande incertezza qui a Bruxelles sulla possibilità che la Turchia rispetti i criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti. Nel converso, si teme che l'intesa tra Ankara e Bruxelles fallisca, rilanciando gli arrivi di migranti dal vicino Oriente. In teoria, la liberalizzazione dei visti, condizione della Turchia per collaborare con l'Unione nel gestire gli immigrati, doveva essere cosa fatta in giugno. Ormai, al di là delle questioni politiche, è probabile che l'iter di approvazione duri fino a settembre, se non addirittura ottobre. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il 52% degli inglesi, se si votasse oggi, voterebbe per restare nell'Unione Europea, il 41% invece no. Lo dice un sondaggio pubblicato dal Daily Mail. Intanto attori, scrittori e musicisti britannici scendono in campo contro la Brexit. Circa 280 personaggi del mondo della cultura, fra cui Jude Law, Keira Knightley, Benedict Cumberbatch e John Le Carré, hanno firmato una lettera pubblicata sul Daily Telegraph in cui fanno sapere che i fondi europei sono vitali per il settore. Non la pensa così Lord Hobbs, l'autore del romanzo House of Cards, secondo cui invece l'industria creativa del Regno Unito ha uno straordinario successo grazie al talento nel DNA britannico. Meno tasse per gli studenti italiani che viaggiano in Europa. Niente IRPEF sulle borse di studio per la mobilità internazionale del programma europeo Erasmus+. È una delle novità previste dalla legge di stabilità 2016, illustrate da una circolare dell'Agenzia delle Entrate. L'esenzione riguarda gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica d'Europa, che partecipano al programma per il periodo 2014-2020. I soggetti che erogano le borse, inoltre, non dovranno pagare l'IRAP. Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che, tra le altre cose, consente ai giovani iscritti all'università di trascorrere un soggiorno di studio di alcuni mesi in un ateneo di un'altra nazione. Il programma integrato combina tutti i meccanismi di finanziamento attuati dall'Unione Europea, permettendo di ottenere una visione d'insieme delle opportunità di sovvenzione disponibili. Il piano mira inoltre a facilitare l'accesso ai fondi e promuovere sinergie tra i diversi settori, rimuovendo le barriere tra le varie tipologie di progetti. Alessandra Iannuzzi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Da oggi entrano in vigore le nuove norme europee sul fumo. Fra le principali novità per l'Italia c'è lo stop alla vendita di pacchetti da 10 sigarette, l'introduzione di scritte sui danni del fumo che devono occupare il 65% dello spazio sul pacchetto, vietati additivi o aromatizzanti che rendano il tabacco più attrattivo. Quello che per le altre nazioni invece sarà in queste ore una novità per il nostro paese è legge già da gennaio, quando con un decreto si sono messi al bando il fumo in auto per proteggere i minori gestanti e la vendita agli under 18 anche delle sigarette elettroniche. Era l'ultima notizia di Europa 24. Un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.